attention, attention. Hola. Hola. Hola. Attenzione canale 10. Attenzione adesso. Hola. Attenzione canale 10, cambio. Attenzione canale 10, cambio. Hola. Hola. Hola. Attenzione sul canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Chi è avanti? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Oh oh, prova. 1, 2, 3, 4, 5. Cosa ti sta avvenendo? Salgando il rovito. Quasi marinanca. Hai mangiato? No, mi quasi marinanca, Giudizio. Oh, un metodo io ce l'ho. Ho un dolore forte, quella che mi hanno operato, adesso boh. Pensavo di aver risolto. Il primo periodo sembrava un grillo, camminavo benissimo. Adesso mi sta venendo questo dolore, adesso chi si sia trasformato in artrosi, boh. Ma la radio com'è? Normale. Normale? Perché ho dovuto aumentare le macchine, era a lui. No, ma già va bene adesso. Già ti grido, era a lui, era. Adesso va benissimo, sì. Amplificazione c'è. Ma l'apparecchio ci avevi abbassato. No, era il macchinino, era a 2, era. Adesso l'ho portato a 5, come dice. L'amplificazione l'ho abbassata. Adesso già va bene, dai. Si sta ascoltando abbastanza bene. Sì, anche se non funzionava male, dice. Però a me la ciabatta mi dà questo rumore sottofondo, mamma mia, con un apparecchio solo me lo fa, con questo qua solo, con gli altri no. Quello che c'è tu? Con lui fa così, però se lo attacca la spina diretta non lo fa. Quelli lì c'hanno, quel difetto lì c'hanno. Quale? Senti la ventola, senti. No, è la ciabatta, ciabatta che fa questo rumore, perché anche se spengo l'apparecchio si sente brrr, la ciabatta, perché c'ho tutte le spine attaccate alla ciabatta, capito? E la ciabatta cosa è? A tre? Sì, l'ha presa con la, tante spine, con tanti attacchi, dai. No, sto dicendo, l'ha presa a tre? Sì. La faccia là, sul terzo o sul primo? E adesso non me lo ricordo, perché ce l'ho dietro il mobile, ma è attaccata lì. E se ce l'hai sul tre la devi spostare sul primo, ecco cos'è, e ti fa quel rumore lì, ti fa. Aspetta che ci provo, ma lo sai che c'hai ragione. Perché lo facevo anche a me, allora ho spostato, dal terzo l'ho spostato al primo, e non me l'ha fatto più. Oh, te lo sentivo anch'io quello... Ecco cos'è. Faceva quel rumore, tipo una tarlata arriva. Già è così. Perché se lo metti al primo non te lo fa. E ti fa come preso a diretta. Oh, è strano proprio. No, la ciabatta è così, perché la sto usando anch'io la ciabatta. Si sa, Nagio, tre prese di quelle tedesche. Poi le altre sono prese italiane, ai fianchi. E anch'io ce l'ho così. Ne ho una che sono tutte prese tedesche, e una che sono miste. No, quelle di su ce le ho a coso, alla tedesca ce l'ho. Vengo preso. Faccio capito. Vabbè, allora sei uscito tu. Non ti ho preso nulla. Ho detto uscito sei. Nulla, no? Non riesco a capirti adesso. Perché non riesci? Cos'è? Troppo alto? Adesso va benissimo. Era come cuffa la voce. È perché è troppo alto forse qua. Adesso provo a alzare. Andava benissimo com'era, amico. Guarda, così bene va. Non ti ho compreso. Amplificazione ce n'è così. Cosa hai detto? Un'amplificazione? C'è qua l'amplificazione in questa posizione. Sì, questa così va benissimo, lascialo così. Brava, brava, va bene. Mi sono dovuto appentare stamattina perché faceva bella il microfono che praticamente aveva un filo che era stato eliminato, però c'era un filamento che toccava gli altri, quindi l'ho dovuto smontare e metterlo a posto. Il montaggio fattivo. A me c'è un filo che ce l'avevo interrotto. Ah, ma invece funziona tutto. Beh, forse aveva la grande funziona. Non ero sicuro se funzionava, perché gli avevo messo il diodo nuovo e non ero sicuro. Ma invece poi ho preso il test e oggi cominciato a controllarvi. E si avete sracciato, ma invece era il cavo anche interrotto. Cavagava. Ok, come passo da Fusano? Guardo se ce l'ha un altro, un cavetto a coso, spirolato, se ce l'ha me lo tengo di riserva. E di solito li ordinavo a marcia, non lo so se ne ha adesso. Quello che ho preso io era l'ultimo ed era un bel lungo. C'ho io un cavo che sarà, a non esagerare, sarà un metro e mezzo, 2 litri, dai. No, un metro e mezzo, 2 metri no, non mi serve. Che si evidenzia o no, che sia 50 centimetri, che si allunghi, no, 20 centimetri, che si allunghi a un metro. Ma c'aveva solo quello, io l'ho preso perché non dovevo fare l'attacco del microfono, mi avevano regalato un microfono che sarebbe questo. E dovevo fargli l'attacco nuovo perché il filo era tutto tanto bagnolato. Il microfono era nuovo, ma il filo era tutto tanto bagnolato. Si è seccato e è riuscita tutta la guaina. Infatti bisogna fare delle cose, controllarle sempre. Io l'ho... quello che c'avevo l'avevo tolto da un altro dal coso, l'avevo tolto dal presente che avevo fatto la prolunga e l'ho messo uno spezzone da 50 centimetri e l'avevo messo da parte. poi l'ho controllata, ho visto che funzionava e ci ho attaccato lì. Adesso dovrei prendere uno per averlo di riserva. Se no te lo metti direttamente, se lo trovi. Spigalato è più bello perché quando ti non ti gira tutto, almeno c'è una molla, capito? Ma quello che ci ho messo è spigalato lo stesso. È così, ce l'ho messo e va benissimo adesso. No, avendo un altro di riserva, è meglio. Io ne avrò 4 o 5 di quelli lì, però per il tempo, perché se mi servono a me, da voi non lancio. Ma fai bene, mi fai bene, neanche io non ne do, già mi tocca di montarmi un microfono, toglierò da un microfono di quelli che non uso. Cava. Lo stesso li ho recuperati da microfoni vecchi che non funzionavano, li mancavano un pezzo e roba. E come viene un dolore della mano, santo, dobbiamo lasciare, dai. Un dolore fortissimo, aia. Ci sentiamo, dai. Però sta facendo torna il rumore, sento. Sento i... cos'è il vento, là? Lillo! Ai, mentre sei... No, stavo dicendo, aspetta Manuel, dammi, stavo dicendo che ti sento tornare il rumore. E di che cosa? Io non ne sento qua. No, adesso non te lo sento, poco fa l'ho sentito. Ciao Manuel. Ciao a tutti, mi rimango in ascolto che mi sto preparando da mangiare, dai, che devo andare a lavorare fra un po'. No, io me ne sto andando, mi è venuto un mal di pancia fortissimo, mi si è fatta la pancia dura, mi è venuto un dolore fortissimo. Sì, c'ho mal di testa tutto il giorno, ho mal di testa, non mi vuole passare, cazzo. E quello è perché hai bisogno di riposo, se non riposi bene è normale che ti venga mal di testa. Quando riposi male è quella la ragione, se hai bisogno di riposo, chissà. Perché quando hai mal di testa così è perché dormi poco, capito? Sì. Per carità, vabbè dai, riparate voi, dai, vi ascolto. No, io me ne sto andando, dai, ci sentiamo, che non ce la faccio più, ciao. Ci sentiamo alle prossime, ciao. Ah, Manuel, se ti sei preparato da mangiare. Certo. Manuel. Sì, dimmi. Ho detto, se ti stai preparando da mangiare, ti stai allontanando. Sì, già sono qua, ce l'ho qua in cucina, che è malattio. E perché passo sul 23 a vedere se c'è Gio Maria. E va, rimango lì su quel canale in ascolto, va.